Bam. Sicuro al 100%. C'è il calendario delle prossime partite. No, mi chiudi quella fonte. Quando giochiamo? Questo sabato. Quintana sabato. E... Sabato? Beh, dovranno spostare. Water, che cosa devo dire a Lebowski? Gliel'avevo detto a quell'imbecille della Lega. Chi è il responsabile del calendario? Water. Burkhalter. Gliel'ho detto mille volte a quel cruco del cazzo che non gioco di sabato. Water. Il programma è affisso. Lo disaffigano, porca puttana. Ma chi se ne frega del calendario? Uccideranno quella povera donna, maledizione. E io cosa dirò a Lebowski? Piantala, Drugo. Si stancherà del gioco prima o poi tornerà a casa dal maritino. Sì. Come mai non giochi di sabato? Shomer Shabbas. E che significa? Cioè, e nel frattempo che cosa racconto a Lebowski? Ora ti spiego, Donny. Shabbas è il giorno di riposo ebraico. Vuol dire che non lavoro e non guido la macchina, non vado in giro in macchina, non tocco i soldi, non accendo il forno e di sicuro non gioco a bowling. Shomer Shabbas. Pronterrimi a svelare le carte anche quest'oggi, fan dei Pink Floyd, lo sapevate perché Syd Barrett scelse proprio questo nome per chiamare la sua formazione? Forse come ipotizzato dalla soluzione A, per colpa del nome che si dà a un certo tipo di allucinazioni, quelle che virano sul colore rosa, poi ci sono le Green Floyd, le Red Floyd, cosa annuisce? Dico sì. E le conosce certe allucinazioni? Effetti, no, dicevo no, semplicemente dicevo è una bella spiegazione. Sì? psicodroghereccia, perfetto, con una sua... Ed è esatta o sbagliata? È sbagliata, perfetto, basta. E allora forse era giusta l'ipotesi B, dove si dice che Pink Floyd era una rosa particolarmente amata da Syd Barrett, era un fiore? Sì, era una bellissima rosa, sì, ma la risposta è sbagliata. E allora, eccolo qui, la risposta esatta è la C. Pink Floyd è l'unione di due nomi di celebri bluesmen che Syd Barrett amava particolarmente, ovvero Pink Anderson e Floyd Council. Bene. Esatto, dunque chi ha scelto la terza soluzione, la C o C, che dir si voglia, può mettersi in tasca due bei punti, tanto ci stanno. Ha indovinato. Gli altri rimangano comunque in contatto. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play three games to play. See Emily play. Emily cries. Oh. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on the river forever and ever. Emily, Emily. Tracu, tracu, tracu, tracu. Emily Play, benvenuti sconvolti all'ascolto. Pink Floyd alle 8:25 minuti primi, così i nostri viaggi del mattino. Un data Spadino, come chiude sta canzone? Ma dai, cesellateli questi brani, per favore. Puntata 140 deliranti. Entriamo nel rush finale. Redazione in allerta, che andiamo anche oggi col provino musicisti rock con la bocca. Teniamo duro ancora oggi e domani. Che poi è altre storie. La settimana prossima altre storie. Ok. Abbiamo la conferma di Tino Tassista con luminarie natalizie Buenos Aires. Perfetto, ci siamo. Riconfermo io, in ogni caso, dicembre aspettiamo il Natale rock. Buon Natale, però rock è la parola d'ordine. Ne parleremo poi a dicembre, adesso non posso dire nulla. Non posso dire che abbiamo inciso un brano, non posso. Quindi ne parleremo poi a dicembre. Abbiamo una sfilza di messaggi dei test attitudinali tutti azzeccati oggi. Scopro, grazie a un amico di Firenze, che tra l'altro probabilmente avete azzeccato, anche perché Uè Fabione Treves già aveva raccontato questa cosa. Sono molto contento che siete così attenti alle trasmissioni di Rock FM. In tanti, come quasi ogni giorno, ormai mi state linciando, perché questa storia della patente da vero rocker, che a oggi, a 140 puntate, è stata consegnata solo a Milano in due appuntamenti, posso ufficialmente dire che abbiamo una prossima data per la consegna della patente da vero rocker in terra toscana. Avverrà a Firenze città, non vi dico ancora nulla perché la data è a gennaio, quindi ne parliamo con calma a dicembre, ma tranquillizzatevi, porteremo la patente da vero rocker anche in terra toscana, e ci siamo. Mo ci manca la Liguria e Ravenna, Ravenna Forlì, quel pezzettino lì, ma lavoreremo anche per questo. Intanto si prosegue con All Night Long dei Rainbow. Preparatevi per il provino. Cos'è, un amico oggi? Sì? Un metallaro, quello lì. Immaginavo. Ci manca anche Rogna e Frigo, insomma. Fino alle 9 vi ci portiamo noi, vi tiriamo per le orecchie. frigo, frigo, frigo, devo ammetterlo, anche se la cosa mi costa parecchio. Ebbene, gli umani a volte sono generosi, pensa. Dopo tanti esperimenti estenuanti, oggi mi hanno portato a un parco dei divertimenti. Ronia, che cazzo dici? Ma guarda come sei tutto bagnato! Beh sì, però è stato bellissimo, nella montagna russa sotto la pioggia. Ma quale montagna russa, Ronia? Ti ha messo dentro la lavatrice! Eh? Com'è che si chiama questa nuova giostra? Lavatrice! Lavatrice! Lavatrice! Che sballo, frigo! Come scivolo! Lavatrice! Lavatrice! Fortuna che non ci siamo fatti la centrifuga! Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell us calling, just to wish you well. Let me leave my number, I'll break and tell. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender. Treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Don't leave the building, can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Caro Freak, non sì? Sto nella pelle, sa perché? No, me lo dica, voglio saperlo. Le dico solo provino per diventare musicista rock con la bocca. Anch'io voglio partecipare. Senta qua. No, la smetta, non faccia così. Cos'è? Un flauto traverso? Sì, però. Sì. La smetta, per favore. La redazione ci segnala un ennesimo amico a telefono. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Ciao! Benvenuto a Pane, Burro, Rock and Roll, chi sei? Sono Sliver Metal. Oh, finalmente. Sicuro? Sicurissimo. Benissimo. Sliver Metal, quanti anni hai? 24. Sicuro? Sì, l'accendiamo. Va bene. Possiamo chiederti che lavoro fai? Sono uno studente. Sicuro? Studente. Sicuro? Non sembrava sicuro. Fuori corso? Esatto. In corsa? Ancora no, in corsa. Ma gli altri corrono troppo. Allora, vabbè, ognuno col suo passo. Come mai scegli di diventare musicista rock con la bocca? È sempre stato il sogno della mia vita. Suoni anche uno strumento nella vita reale? Risposta esatta. Sì, la chitarra. Però... Ah, un chitarrista. Però con meglio scarsi... Meglio con la bocca. Ma quindi tu dici, con quella vera, scarsi risultati, quindi... Con la bocca meglio. Che brano andrai ad eseguire così nel provino di oggi? Fade to Black di Metallica. Brano metallaro, bellissimo. Sono difficile. Curioso. È difficile? Dipende, no, non tanto. Ti si attorciglia la lingua quando prami? Arpeggi un po' difficile. Arpeggi un po' difficile. Ti sei allenato? Sì, ci ho passato tutta la notte sopra, è stata veramente un po' complicata, ma ce la posso Senta, fare. Maestro, io lo sento tranquillo, sì. Il nostro Sliver Metal, sì. Quindi se te la senti io ti lancerei con il provino. Ok, va bene. In diretta sulle frequenze di Pane, Burro e Rock and Roll, il nostro ascoltatore Sliver Metal con la sua chitarra con la bocca Fade to Black dei Metallica. La radio è tua, vai! Vai! Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun Appassionante. Qua non ce la faccio più. No, come? Riprova. Si è fermato. Riprova. Ma non ce la fai facevi. Perché è troppo veloce o perché è troppo alta? Troppo veloce e troppo alta. Riprovaci, Sliver Metal, ti prego, solo in questo pezzo, vai. Vedi, basta crederci. Complimenti! Un applauso. Bravissimo, bravissimo. Comunque, una mollettina da qualche altra parte per fare i giorni acuti. Sappiate che noi terremo conto anche del grado di difficoltà del brano che avete scelto. Come per i tuffi, esistono molto, i gradi di difficoltà. Anche per le canzoni rock con la bocca. Come stiamo dicendo a tutti, le faremo sapere. Complimenti per il doppio carpiato alla voce, grazie, alla grazie. Bocca, alla lingua. Ma e se dovessi la tua voce, Frick. Ah, grazie, troppo gentile. Questo ti aggiudica molti punti. Non è vero, saremmo imparziali. La domanda è la solita: dovessimo organizzare un'orchestra, ma che dico un'orchestra? Una band di musicisti con la bocca, tu saresti disponibile? Sì, disponibilissimo. E allora grazie mille. Molti risultati migliori di quelli dell'università. Grazie, Sliver Metal, credici un sacco. Anche l'università, devi prenderla come hai preso quel pezzo alto dei Metallica. Ci devi credere. Ciao caro! Ciao, grazie. Avanti così e come si dice in tutte le redazioni, le faremo sapere al più presto. Pane, burro, rock and roll. Pane, burro, rock and roll. Mazza che figata sto programma, raga! Thank you. storie di doppia cassa, eh? Fade to Black, Metallica. 8 e 56 minuti primi, chiusura lunga oggi. Ce la siamo ascoltata nella versione dei Metallica, ma io come al solito resto più affezionato alle versioni vostre, quelle fatte con la bocca. Sentiremo ancora un provinante, direi, domani. E poi dopo, per settimana prossima, bisogna parlarne un po', ragazzi, eh? Perché settimana prossima, venerdì, è festa. E da lunedì a venerdì andrà in onda La Crema, che i più fedeli sanno essere il meglio del peggio di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Perché io e Freak dobbiamo fare parecchi lavoretti per l'arrivo del primo Natale Rock della storia. Vi faremo sapere. Intanto ringrazio la segnalazione di Ross da Faenza, che mi permette di fare in bocca al lupo a Gento degli Show Strip Silence, che sostituisce Silvio dei Persiana Jones in una tournée tedesca. E io, cara Ross e caro Gento, se sei all'ascolto, sarei curioso di approfondirla questa cosa, perché sono un vecchio fan dei Persiana Jones e ne ho scoperta una carina. Cioè, mi hanno detto che Silvio, il cantante, da quello che ho capito, ha aperto una pasticceria. Insomma, storia che vorrei approfondire. Storie di pasticcerie e band ska italiane in giro per il mondo. Sembrava carino come tema. Lo tratteremo, sì. Pane, burro e rock and roll. La nostra colazione è finita. La tua colazione rock. Termina così, in bellezza. Pane, burro e rock and roll. Uè, Fabione! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Buongiorno anche a Marco Garavelli. Buondì. Ciao caro, senti, però purtroppo mi arriva una mail al volo che devo commentare. Ho detto, a termine di un brano dei Pink Floyd, cesellateli questi pezzi. E Roby ha creduto che io lo stessi dicendo ai Pink Floyd. No, io lo dicevo a Spadino. Perché sì, Emily Play finisce un po' tronca. Lo dico anche a te, già che ci sono, eh. Però nulla contro i Pink Floyd. Ah, Garavelli, com'è? Aspetta, devo ricordare una cosa importante. Aspetta, guarda com'è. Questa sera al The Sad di Milano, in via Valtellina 21/23. Nemmeno leggendo ci riesci. Presentazione di Guitar Hero 3. Guitar Hero 3, scritto in romano. Legends of Rock, The Party. Presenzieranno alla serata la Rock FM All Star Band, un sacco di ospiti e i Lacuna Coil. DJ set di Rock FM. Ingresso gratuito. Tiè, oggi l'ho fatta. Orario? Sì. Dalle 22:30, Mannaggia, oh, se non ci mettevi la tua l'avevo fatta tutta io. Sennò la gente arriva... Hai ragione, Garavelli. Tra l'altro, guarda... La cena è esclusa. In che senso? Nel senso che quelli che vengono non hanno la cena, ecco. Arrivino già... Mangiati. Cenati. Hai ragione. Anche per noi, dici? Ti ricordi l'ultima volta? Adesso non so, però... Allora, approfondiamo il discorso. Noi saliamo con la Rock FM Star Band e facciamo dei pezzi. Sì. Dici che si arrabbiano i miei colleghi se stasera mi presento senza chitarra e dico: oh ragazzi, faccio con la bocca io, eh. Ah, col kazoo al massimo. Aia l'hai detta, Garavelli. Io mi porto il kazoo. Edo mi spacca la Gibson in testa, secondo me. Una delle sue, quella a doppio manico stasera la porta, secondo Speriamo. Me. Speriamo. Così la prende a due mani e te la rompe in testa. Mox, secondo me, si arrabbia anche lui. Sì. Max, no. Max, ci spariamo una birra e passa tutto. Passa tutto. E Pinguino potrebbe... Anzi, Mister Pinguino, se sei all'ascolto, non portarlo il basso. No, devi di portare il caricabatteria che non è finita, mi si è scaricato. Si porta il caricabatteria. No, io non posso. No, va bene, dai. Garavelli, devi smettere di usare videogiochi. Ho capito, non puoi scaricato. Garavelli, una vita dedicata all'heavy metal e ai videogame. Ma ne finissi uno poi. Stasera comunque vieni su a farla solo con la bocca, hai promesso. Dal coro sono passato alla solo con la bocca. No, è meglio che non mi presento. Cosa preferisci? Non so, devo fare solo degli Aerosmith con la bocca. Testo croce. Vabbè, tanto vediamo. Ci vediamo stasera, disastro ragazzi. In ogni modo. Al The Sad in Viale Valtellina, lì ce lo siamo detti. Ciao.